Per te il ballo è bianco o nero? Ma è decisamente nero. Anzi, secondo me non è nero. Secondo me è come colore, non so perché, ma il ballo è blu. Secondo me è perché, ecco, quando io mi sento di ballare, io mi sento di essere tipo che sto volando. E quindi mi fa pensare al cielo, che è blu. Esattamente. No, l'happen è appunto, come abbiamo appena detto, è un luogo di ritrovo dove puoi fare tante cose. Quindi togliere anche i giovani dalla strada e li metti in un luogo dove possono stare insieme e divertirsi, senza che si mettano a spacciare o fare cose magari peggiori, in un quartiere dove ci sono effettivamente dei problemi, Per me lo quindi spaccio non è un grande vanno problema, risolti comunque. queste passioni che possono diventare a sua volta un lavoro, a loro volta un lavoro. Ballerino è un lavoro, musicista è un lavoro, il cantante è un lavoro, se lo sai trasformare, se no può rimanere una passione e la coltivi come passione, fai altri lavori. Non vorrei diventare mai un adulto deluso dalla vita. Vorrei mai, tipo, a un punto della tua vita ti chiederai sicuramente, questa è una cosa che ci hanno insegnato in molti, che ti chiederai sostanzialmente nella tua vita cosa hai fatto, cosa hai combinato. E io vorrei, tipo, quando mi farò quella domanda, riuscire a trovarmi una risposta che mi dia soddisfazione. Io non voglio diventare una persona con dei rimpianti perché secondo me sono la cosa peggiore che si può avere nella vita, quindi a volte è meglio rischiare e perdere che non aver rischiato proprio e quindi aver fatto una vita, non dico mediocre perché la mediocrità non è brutta, però la mediocrità è appunto, come dice la parola, è mediocre, quindi non ha un'accezione positiva in sé per sé, quindi nel futuro non voglio avere dei rimpianti e cercherò di non avere una vita vuota. Family.